tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Sono Pierino Marazzani del Circolo Culturale Giordano Bruno di Milano e voglio con questa breve registrazione iniziare una collaborazione atea anticlericale con la vostra Radio Wombat di Firenze. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, apriamo questa trasmissione dedicata all'anticlericalismo con il problema delle campane. Come sapete, da molti anni in tutta Italia numerosi cittadini si lamentano del suono delle campane. Quindi iniziamo a parlare di una sentenza fondamentale della Cassazione del 2006 che ha condannato il parroco di un paese in provincia di Siracusa a una multa per le campane. La causa era arrivata fino in Cassazione appunto perché il parroco si era lamentato. Ma la magistratura, in base alla legge che è uguale per tutti, così dovrebbe essere, ha dato ragione a chi si lamentava. Il mio più antico articolo contro le campane è del 1991, Pretore oscura le campane a Gorizia, e anche un articolo del 1994, Silenziatore alle campane di Cusago in provincia di Milano, dopo la protesta degli abitanti della zona. Proseguiamo questa rassegna stampa contro le campane con un articolo del Corriere della Sera del 1987. A Belmonte, Palermo, la gente in subbuglio per una singolare iniziativa. La messa amplificata divide un paese. Lascia anticampane. In Gran Bretagna un'anziana esasperata nel 1996 irrompe in una chiesa e taglia i batacchi. Siamo ancora negli anni 90 e sempre il Corriere della Sera che ci ricorda che a Mozzo, in provincia di Bergamo, è in corso la battaglia delle campane tra sindaco democristiano e il parroco e scontro aperto sui decibel fuori legge. A Salerno sciopera il parroco multato. Le sue campane davano fastidio ai turisti e hanno obbligato a spegnerle nel 1994. Clamorosa multa di 1.300 euro al parroco di un paesino di Porto Maggiore a Venezia nel 2015. Campane troppo rumorose, avviso di garanzia a un parroco di Cremona. Multa per campane rumorose, anche il quotidiano Liberazione e anche la rivista Sicilia Libertaria si occupano di questo problema. Alla Sacra Famiglia di Rogoredo, quartiere di Milano, comune parrocchia, guerra di campane. E stranamente il comune è dalla parte dei cittadini e ha fatto ricorso contro il parroco. Siamo a Delebio, in provincia di Sondrio, nel 1999. A giudizio il parroco per rumori molesti. Il prete denunciato dalla madre di una disabile. A Lodi il comune imbavaglia le campane, il parroco regala rosari ai consiglieri. Siamo ormai nel 2000 a Maleo, appunto nell'Odigiano. Cosa succede a Genova? Usa troppo le campane, parroco denunciato nel 2002. Assordante il suono delle campane, cominciato il processo a un sacerdote. Campane tormentano il paese, a giudizio sacerdote di Crema. In provincia appunto di Cremona, campane spaccatimpani. A fine al Borgo, provincia di Savona, prosegue la querelle delle campane. Il farmacista risponde alla dichiarazione del villeggiante contro le campane spaccatimpani. Cassazione nel 2005, multa al parroco che usa troppo le campane. Nel 2002 le campane devono dormire. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dopo le proteste dei vicini, un'ordinanza vieta il rintocca di notte dalle 21.30 alle 7. Campane spaccatimpani anche a Roma, in provincia di Milano. Volume delle campane troppo alto, lamentele anche dal comune di Ro, sempre in provincia, appunto, come dicevo, di Milano. Campane senza voce, il paese non le vuole più. E qui siamo nel 2006, a Solanas in provincia di Oristano. I vigili del fuoco staccano la corrente al campanile, addirittura, bravi vigili del fuoco. Siamo sempre in Italia, troppi scampanii, parroco citato a giudizio nel 2006. Bolzano, abitanti protestano contro le campane di Gries nel 2008. Campane rumorose, insegnante risarcita con ben 60.000 euro, quindi non si può solo ottenere la multa al parroco, ma facendo una causa civile si può avere un rimborso. A Bergamo, la campana perde il batacchio, centrata in pieno un'auto sotto il campanile, è successo anche a Bollate, dove abito io in provincia di Milano. Le campane sono pericolose non solo per la salute, ma anche per gli infortuni che provocano. Infatti è già successo che un campanaro, tirandole le corde, si è impiccato. Esposto zittisce le campane, a Cesate in provincia di Milano. I residenti sono rivolti ai carabinieri denunciando il disturbo della quiete pubblica. D'ora in poi i primi rintocchi non si sentiranno prima delle 9:45. Ottimo. Le campane alla sbarra in provincia di Varese. Siamo nel 2009, fanno troppo rumore. Le campane di Santa Margherita provocano suoni troppo acuti e forti. I cittadini protestano per i fastidiosi rintocchi e le melodie insistenti. Siamo a Settimo Milanese nel 2009. Adesso passiamo al paese di Mezzema in provincia di La Spezia. Un turista zittisce le campane, facendo ricorso alla magistratura. Campane moleste, protesta col parroco a Camnago di Lentate, in provincia di Monza nel 2005. Le campane non fanno dormire, protesta in piazza del santuario a Garbagnate Milanese. Un gruppo di cittadini incazzati chiede al sindaco di non farle suonare a meno di notte. San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, parroco multato per campane rumorose nel 2011. L'UAR, Unione Atei Agnostici Razionalisti, segnala il fatto nella rubrica delle notizie positive. Il caso, multa le campane, il parroco le suona troppo forte. Salzano, Venezia, abitante fa causa a parroco per campane troppo rumorose. Siamo nel 2011. Argentina, vedi, quindi abbiamo parlato prima dell'Inghilterra, adesso dell'Argentina, chiesa multata per rumore delle campane. A Venezia Mestre, due chiese multate per campane troppo rumorose. Siamo nel 2012. Bene, avanti con le multe. A Rivarolo del Re Cremona, campane sì o no, nuova contesa. Stereo a tutto volume per coprire il rumore delle campane. Qui in questo paese di Sagrado, in provincia di Gorizia, è successo proprio un caso limite. La gente era talmente incazzata per queste campane che ha disturbato addirittura un funerale per rappresaglia contro il parroco. Le campane sono troppo rumorose, famiglie di un palazzo esasperate, a Orice in provincia di Varese, convocate a riunione del condominio per chiedere l'intervento dell'amministrazione. E passiamo ora al 2014, il campanile che divide un paese. Salviamo i rintocchi alle 6:30. Richiesta al parroco per abolirli, ma il sindaco difende la tradizione. Siamo a Santo Stefano Lodigiano. Nel 2016 a Villa Santa, multato il parroco, le campane fanno troppo rumore. E qui passiamo in Toscana a Prato. Le campane suonano troppo forte, multa di 1.000 euro al parroco nel 2016. Bravi i toscani. A Udine, cosa succede a Udine? Il suono delle campane è troppo forte, scatta la denuncia, multato il prete di Maiano. Bene. Anche a Milano nel 2017 succede una polemica sulle campane della Discordia, i rintocchi che fanno litigare gli abitanti della zona ticinese di Corso San Gottardo. Sulle social street c'è chi protesta e chi le difende, i parroci corrono ai ripari. Dove è stato ridotto il suono? Alla chiesa di San Gottardo, nell'omonimo corso a sud di Milano. Rintocchi anche di notte, un referendum risolve la disfida delle campane a Monbello Monferrato. Zittire le campane nel 2018, San Germano, Vercelli, zittisce le campane dopo la caduta dei calcinacci. Non potranno suonare fino a nuova ordinanza del comune. Vabbè, tutto fa brodo, basta che siano zittite. Perugia, campane rumorose, il comune multa il prete nel 2018. Bene, bene. Campane troppo rumorose, Dopo la multa, indagato Don Emmanuel a Maiano Udine. A Caddo, questo paesino che non mi ricordo in che zona, in che paese è, polemiche per il rumore delle campane della chiesa. 21 febbraio 2018, è il mio ultimo ritaglio. E segnalo appunto che questa rubrica anticlericale proseguirà con altri argomenti, sempre di natura anticlericale, di critica agli abusi della Chiesa. E seguiteci sempre su Radio Wombat. Grazie, saluti. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario anche tu.